Diciamo, il tema dell'anno è giusto un pretesto, no? Per indagare un po' alcuni argomenti che ci stanno a cuore, che sono il nostro DNA proprio di farm. Ma sentitevi ovviamente liberi di espanderlo, di allargarlo, di non sentirvi confinati dentro questo tema, perché ovviamente altrimenti diventa complicato poi costruire un intero anno di progettazione di moduli educativi per i bambini. È nostra abitudine in qualche modo costruire il tema dell'anno di show sulla scia del progetto culturale di Farm dell'anno. Quindi l'anno scorso il tema era legato appunto al femminismo perché avevamo Radical She, quest'anno il tema è legato alle comunità utopiche, un po' come la nostra, no? Come siamo noi. Ospiteremo dentro Farm, domani vedrete dentro i sette cortili, già c'è un pezzo di installazioni che già sono state realizzate perché stiamo costruendo la nuova mostra. Il padiglione principale è curato da questo fotografo palermitano bravissimo, si chiama Carlo Bevilacqua. E la cosa meravigliosa è che io non avevo mai sentito parlare di lui, pur essendo siciliano, essendo bravissimo, non finisci mai di scoprire le cose belle, no, nella vita, no? Cioè, non pensavo che dopo 13 anni ci fosse un fotografo, io amo la fotografia, siciliano, così bravo, e no, no, non sapevo l'esistenza. E Carlo praticamente si è girato l'universo, ma veramente, per scoprire tutte quelle comunità. Talvolta diciamo di un po' spirituali e religiose, talvolta un po' hippie, talvolta invece anarchiche, talvolta semplicemente sensibili ai temi dell'ambiente, che dall'India agli Stati Uniti, all'Australia, all'Italia, alla Francia sta. Come dire, da anni esplorando modalità di vita comune differente, no? E quindi c'è Auroville, c'è Arcosanti, c'è Damanhur, c'è veramente ci sono tante esperienze che verranno raccontate dentro questa mostra. Perché pensiamo che sia una mostra, perché pensiamo che sia un tema importante? Beh, il Re Ipsa, no? È un po' quello che facciamo. Farm stessa è una comunità utopica, no? Farm è un'utopia diventata realtà. Quando noi abbiamo iniziato a raccontare a tutti, ai nostri familiari, agli amici, che volevamo trasformare il centro storico di Favara con l'arte e l'educazione, ci prendevano per cretini. Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su questa impresa, e ovviamente questo è uno dei temi, delle finalità più importanti della scuola di architettura per bambini, no? Cioè quello di spiegare ai nostri bambini di non arrendersi rispetto alle retoriche dominanti, quelli che ti dicono che non ce la puoi fare, questa cosa è impossibile. Ognuno di noi avrà avuto nella sua vita personale qualcuno che gli ha detto: no, ma tu questa cosa non la puoi fare, no, ma qui non funziona. Qui, magari anche rispetto a Soho, no? Magari avrete raccontato a qualcuno: porto Soho a Zafferana Etnea o a Torre Grotta, e qualcuno mi ha detto: no, vabbè, ma qua chi ci deve venire, così deve fare. E quindi questa è la cosa più importante che vogliamo insegnare ai nostri bambini, quella di veramente di sognare di rendere possibili le cose impossibili. E dall'altra, ecco, ci sono tante anche esperienze in Italia, probabilmente anche nelle vostre regioni, provate a fare delle ricerche per ascoltare queste persone, per portarle in contatto con i nostri bambini, per dargli dei punti di vista differenti, per abituarli, come dire, a ragionare al di là del pensiero dominante, no? Di quello stereotipato, canonico. Questo è un po', diciamo, quello che abbiamo immaginato rispetto alla dimensione dell'utopia, del pensiero utopico, ma sempre con quella nostra voglia di essere molto concreti, no? Di non rimanere semplicemente nella dimensione del sogno, ma di buttarla a terra, di realizzarlo, di praticarlo, di presidiarlo. Non vi intorterei più tanto, quindi facciamoci, diciamo, una chiacchiera libera anche su questo tema, se vogliamo esploderlo su Sogo, su Farm. Cioè, prendiamoci questa, che ore sono? Sono le? Sono le 18:53, sono quasi le Questa 7. mezz'oretta che abbiamo prima della cena, no? Così, per fare anche un po' un brainstorming di idee, di riflessioni, di dubbi, di curiosità. Certo. Posso io? Più che altro volevo anche presentarvi perché forse non sono riuscita a parlare con tutti e quando condividiamo lo stesso spazio penso che positivo che ci condividiamo, sono Mafalda, con Francesco abbiamo studiato architettura a Siracusa, condividiamo tanti valori con Andrea e arrivati, noi siamo a Siracusa per scelta, diciamo tante persone che confrontiamo perché siete qua, perché siete venuti, forse perché ci troviamo bene nella tabula rasa e nel poter cambiare questa tabula rasa. Quindi penso che è buono, io mi sento bene a trovare persone ottimiste, penso che tutti noi in questa stanza, più o meno architetti, abbiamo questa voglia di cambiare il mondo e per questo ci vuole ottimismo, essere proattivo, ma essenzialmente questa voglia di cambiare il mondo, che penso che questo lavoro che possiamo fare a Farm e a Soul, che è trasmettere ai bambini questo strumento, che è praticamente questa possibilità di pensare che si può cambiare la realtà dove siamo. Quindi io sono contenta perché non troviamo tutti i giorni persone che vogliono cambiare con noi il mondo, principalmente in Sicilia, quindi sono contenta Siamo molto fortunati. sì, che condividiamo questi valori di cambiare, sempre migliorando, diciamo, la realtà dove abitiamo. Siamo molto fortunati e privilegiati perché, ecco, diciamo, latini dicono tertium non datur, no? Ci sono due possibilità. O siamo come dice Mafalda e ci nutriamo di altre persone che vivono questa stessa proiezione, oppure ci arrendiamo al partito dominante, diciamo in Italia, al sud Italia soprattutto, che è quello dei nichilisti, di quelli che ti dicono tanto non cambierà mai nulla, tanto tutto fa schifo, la politica è un disastro, tutti, e quella roba lì non serve, no? Allora, noi stiamo vivendo ad esempio a Favara un momento di difficoltà. Ma non noi come Farm, la città è in una fase di difficoltà, un po' di stanchezza, un po' di disorientamento. Diciamo, in passato c'era questa sorta di immedesimazione organica tra Farm e la città di Favara, cioè se Farm stava bene, la città stava bene, se Farm stava male, la città ne risentiva. Oggi, diciamo, noi siamo consapevoli che Farm ha generato tantissimi cambiamenti a Favara. Non ha neanche senso raccontarveli, ma ci sono principalmente la dimensione economica, nella riappropriazione di un centro storico che era completamente abbandonato, no? Il dato che comunque certifica questa roba è essere passati da 6 camere d'albergo a 600 posti letto, però dopo 13 anni ci rendiamo conto che ancora ci sono 1 miliardo di problemi, no? E dall'altra non possiamo fingere né con gli altri né con noi stessi che questi problemi ci sono. E quindi bisogna anche imparare, no, Falda, a fare i conti con i limiti nostri e di contesto. Nel senso che noi abbiamo questa esatta voglia di cambiare pezzi di mondo. Poi dove arriviamo mettiamo un punto, no? Nel senso che il rischio poi di essere in qualche modo fagocitati in un desiderio di continuo cambiamento e di ritrovarsi in una dimensione di frustrazione per tutte le cose che comunque non riesce a cambiare, quello è pericoloso. C'è un amico caro di Farm che si chiama Daniele Parioperra, che spero che tutti quanti voi nel tempo avrete la possibilità di conoscere, che ogni volta che ci incontra mi affronta e dice: "Oh, fermatevi un attimino, cioè, ma vi rendete conto di quello che avete fatto?" E noi abbiamo sempre questa proiezione a migliorare, a cambiare, perché c'è l'urgenza, no? Cioè, non è che possiamo nasconderci davanti al fatto che comunque siamo delle gocce e quindi c'è bisogno di creare tante altre gocce per creare consistenza. Però dall'altra, ecco, bisogna fare i conti con quelli che sono i nostri limiti personali, quindi se ci sono delle cose che non siamo capaci di farle, pazienza, no? Impareremo, faremo anche così così, anche rispetto a chi è troppo perfezionista, no? Datevi, come dire, la possibilità di sbagliare, di non essere perfetti al 100%. Racconto sempre che per me, diciamo, la più grande dose di autostima è partecipare alle Biennali di Venezia, perché ogni volta che partecipo alla Biennale di Venezia ritorno e dico: "Cazzo, ma non è la Farma, allora va benissimo." Cioè, perché allora, per me il primo invito alla Biennale di Venezia, no, era il 2012, e racconto che eravamo su un aereo con Florinda e stavamo leggendo un giornale, c'era, diciamo, un articolo che raccontava l'imminente Biennale di Venezia di quell'edizione. E io dissi a Flo, nel 2012 Farma era nata da 2 anni, ma ti immagini un giorno ci invitano alla Biennale di Venezia, che figata, no? Cioè, sarebbe proprio bellissimo. Cioè, per me la Biennale di Venezia era, come dire, una convocazione al mondiale di calcio. Se fossi stato un giovane calciatore, era quella, diciamo, la proporzione. Passano 2 settimane e arriva prima un invito a un evento fuori biennale, ma riconosciuto alla Biennale, alla Serra dei Giardini, e poi di lì a pochi mesi l'invito sempre alla Padiglione d'Italia, alla Biennale di Venezia. Insomma, ovviamente una gioia enorme, ma quando ci comunicano, c'era ai tempi Luca Zevi, curatore di quella edizione del 2012, intanto vi devo raccontare come funziona questa comunicazione in quel caso, come funziona. Ci arrivò una mail a fine maggio, eravamo stati preselezionati. Però ancora non era certo che ci prendessero. Voi sapete che noi abbiamo a fine giugno il compleanno di Farma, quindi eravamo tutti concentrati lì. Eccitazione bestiale, eravamo già alla Serra dei Giardini con l'evento fuori biennale, abbiamo detto: "Non lo diciamo a nessuno, perché se poi non ci prendono è brutto, no?" A parte che poi la biennale hanno queste regole che non puoi dire mai a nessuno che sei lì fino all'ultimo momento. Voi forse avete fatto qualche biennale, no? Diciamo Più o meno, di avrete lato, poi i vostri sì. racconti da fare. Insomma, comunque, dico, non diciamo niente a nessuno. La settimana prima del nostro compleanno, noi super indaffarati, arriva una mail che dire maldestra è poco. Dice: "Voi signori di Farm Cultural Park, dello studio di architettura, piano." Studio di architettura piano. C'era un copia e incolla che non aveva funzionato. "Vi chiediamo se volete partecipare alla sostenibilità del padiglione e quindi con un contributo minimo di 5.000 euro. E io dissi: "Cavolo, attenzione, poi aspetta, poi alla Serra dei Giardini noi ne avremmo spesi il doppio per fare l'evento, no?" Quindi non era un tema di, diciamo, quantum, era un tema di modo. Io: "Ma scusi, tu mi mandi una mail in cui mi preselezioni, poi mi scrivi questa cosa dove mi chiedi almeno 5.000 euro, mi devo comprare, diciamo, l'accesso alla Biennale." Cioè, l'ho letta così e dissi: "Guarda, facciamo facciamoci il compleanno di Farm, non rispondere, fanculo, cioè se ce la dobbiamo comprare già non mi piace. Passano altri 7 giorni, in realtà ci confermano che siamo in biennale. Quindi quella mail era a firma del curatore, peraltro, scritta chissà da chi messo lì all'ultimo momento a fare sta roba qua, ci aveva indotto a pensare male, quando poi in realtà non era così. Aspetta, quindi per dirvi no, che poi uno si sente fare e dice oh, fantastico, la biennale è questa, noi andiamo per... Insomma, poi arriviamo il giorno lì, ah no, io chiamo subito l'architetto responsabile, dico, guardi architetto, io vengo a Venezia, facciamo un incontro, sì, ci spiega qual è lo spazio che dobbiamo... Ma io, no, notaio, guarda, noi conosciamo tutto di voi, è un progetto bellissimo, bravissimo, pensiamo tutto quanto noi. Vabbè, tutti quanto noi, vabbè. Giorno di apertura alla biennale, arriviamo lì con Florinda, le bambine eccitatissimi, entriamo, era la biennale di Olivetti, la biennale col bosco, ve la ricordate, no? Entravi, c'era questo bellissimo bosco, ma dove siamo? Dove siamo? Ci trovavamo? Si è iniziato a venire il dubbio che non ci fossimo, ho detto, ma cazzo, abbiamo detto a tutti che siamo in biennale, non ci siamo. Insomma, morale della favola, eravamo in uno slideshow di immagini, no? Insieme ad altri 99 progetti selezionati, tra cui c'era Fabbrica, Itali, diciamo progetti enormi, di scala completamente diversa anche rispetto a Farm, però con una immagine che passava ogni 45 minuti, no? Però già c'eravamo, quantomeno c'eravamo. Però ecco, per dirvi, no, la delusione di quella prima edizione, perché se una biennale è una mostra, e una mostra serve per mostrare, noi non c'eravamo lì, cioè non ci ha visto nessuno, non è mai arrivato nulla dalla biennale. Le altre biennali sono state meno traumatiche, diciamo, no, vi racconto l'ultima sempre per darvi l'idea. E come mai avete accettato gli inviti alle successive biennali? Ma sai, è come se ti mettessi una specie di stemmino, no? È come una stelletta che ti metti come i soldati che aggiungono una bandierina colorata. Però veramente non porta nulla. Allora, l'ultima biennale, un po' di mesi prima, vengo invitato a Padova dall'Ordine degli Architetti di Padova a fare una presentazione di Farm e c'era anche il curatore della biennale, Alessandro Melis, che io non conoscevo, conoscevo ovviamente di fama, lui conosceva Farm, un ragazzo delizioso, stiamo a parlare tipo fino alle 3 del mattino, io alle 5 arrivato all'aeroporto, non sono neanche andato a letto, dice no, ma voi assolutamente dovete fare parte del padiglione d'Italia. Ho detto no, grazie, volentieri. Dice ma assolutamente dovete fare qualcosa, perché poi le altre biennali alle quali siamo stati invitati c'era sempre un quadretto, un video, un po' meglio della prima, dove proprio non esistevamo, però neanche troppo, no? Perché anche in una biennale, se tu sei un creativo, un'organizzazione creativa, diciamo qualcosa la vuoi fare, no? Non vuoi essere rappresentato con un quadretto, no? Insomma, Alessandro dice, guarda, voi fate parte di questo filone del padiglione, vi assegniamo un televisore, uno schermo grande, decidete voi cosa proiettare. Ok. Prima di finire il racconto però di Biennale di Venezia, Padiglione Italia, Farm, vi devo raccontare nello stesso periodo io stavo là lavorando alla costruzione della seconda edizione di Countless Cities e c'era un padiglione dedicato a Nova Delhi. La curatrice, molto brava, una super rompicoglioni. Quindi questa curatrice mi ha scritto, non lo so, 4-5 mail infuocate, inferocite, perché avevamo messo un pannello 4 cm più basso di quanto volesse lei, ma lei non si rendeva conto perché non c'era, c'era il dentello della muratura, quindi io non potevo metterlo su perché non c'entrava proprio. Gliel'ho spiegato in tutte le salse, mi ha scritto che eravamo approssimativi, che eravamo di tutto, dilettanti, insomma, mi ha veramente insultato quasi la famiglia. Noi per il Padiglione Italia, dice, sai, abbiamo questo schermo, che facciamo? Comunità resilienti, decidiamo di coinvolgere tutte le comunità, diciamo, creative attorno a noi legate a farm, chiediamo a ognuno di loro un video di 3 minuti e facciamo un palinsesto, una Farm TV, per cui tu entravi in biennale alle 10, uscivi alle 18 e quel video avrebbe mostrato sempre qualcosa di diverso. Ovviamente ogni giorno si ripeteva, ma in quelle 10 ore tra video nuovi fatti farm, video di archivi e video di tutti gli amici che abbiamo invitato a portarci queste cose, costruiamo questa cosa. Arriva il giorno di apertura. E il giorno di apertura andiamo lì sempre contenti, consapevoli che qualcosa sarebbe accaduto, e troviamo nello schermo di Farm un video di 2 minuti di archivio di Farm in loop. Un video vecchio. Vedi i tempi di Grillo che parlava di Farm? Dove l'hanno preso? Era parte delle 8 ore di programmazione, ma loro se ne sono fottuti e hanno messo questa roba qua. Allora, ovviamente io ho chiamato Alessandro con gentilezza, perché poi sapevo che non era la responsabilità di Alessandro, e Alessandro mi ha detto sì, io faccio sistemare. È rimasto quel video di 2 minuti e mezzo sempre per i 4 mesi. Quindi il ragionamento che feci io, ho detto, ma se la curatrice Nuova Deli mi voleva uccidere per quella roba lì, no? Cioè, se fosse capitata a lei questa cosa, mi avrebbe ammazzato i parenti come minimo, no? In proporzione. E quindi ecco, se vuoi migliorare l'autostima devi andare alla biennale di Tutto di Venezia. Accolgo un attimino degli amici che stanno arrivando. Qualcuno vuole il piacere di intervenire in questa pausa? Vieni. Cioè, noi abbiamo vissuto sì. Quindi confermate quello che... Sì, certo, certo. Bene. Buonasera. Buonasera. Bene. Sì, benissimo. Sì, vuoi dire qualcosa, Mafalda? Sì, però forse... Sì, così. Sì. Poi eventualmente. Avevo una domanda, forse è utile a tutti, che era... noi viviamo anche nel dubbio se ci dobbiamo avvicinare ai comuni, alle amministrazioni in generale, diciamo, perché come è un progetto che va da solo, diciamo, solo. Però c'è l'aspettativa sempre sì, ci sarà una contribuzione o no, non sto dicendo neanche economica, però nella tua opinione come ci dobbiamo comportare con i comuni in generale, diciamo, vorrei... tutti qua Io posso solo intervenire dicendo qual è la nostra esperienza fin qui oggi. Suggeriamo normalmente chi avvia una nuova SOU di chiedere patrocinio al comune e all'ordine degli architetti, ovviamente. Però è sempre non oneroso, cioè sì, mettono, sì. No, cioè sicuramente è, sì. Nella vostra opinione vale la pena, perché comunque il comune e l'amministrazione è un elemento, cioè è un elemento operativo. Sì, no? Sì, perché sì. Sono operativi, sì. E comunque poteva avere una dimensione più pratica, diciamo, la scuola, se fosse in dialogo con un comune. Con sì, noi lo suggeriamo, ecco, che ci sia questa. Sì. Diciamo che sono domicili, no? Che ovviamente non hanno uno spazio proprio, e è chiaro che se è possibile dialogare con il comune e con il pubblico è sempre un valore. Non sempre è facile farlo, non sempre sarete considerati, non sempre dipende sempre dalle persone. Bisogna provarci e se c'è disponibilità bene, se non c'è disponibilità si va avanti lo stesso, ecco. Sì, provarci anche, diciamo, un pochino insistere anche, no? Perché magari un no è più facile da dire che un sì, quindi cercare di spiegare effettivamente bene il progetto. Sì. Però assolutamente sì, perché appunto, come dice Andrea, poi è una ricchezza e un aiuto che comunque ti dà valore al progetto, insomma, assolutamente sì, provare. Il tema è comunità utopiche. o utopia. Beh, diciamo. Ma non è utopia. Diciamo, non vi spaventate, vuol dire, diciamo, abbiamo la fortuna di avere i nostri amici, poi è il nuovo direttore di una delle esperienze di comunità utopiche probabilmente più importanti in Italia, quella messa in piedi dalla comunità valdese. Hai voglia di raccontarci in 5 minuti di questo posto? Cioè, un posto dove sarebbe bello farli passare, magari domani, no domani, non domani, stasera ce ne andiamo, un po' sì. Beh. Sì. Poi praticamente da prima aprile, cioè quando io entro questo, io arrivo della Svezia, il mio italiano è com'è. Faccio un'altra parentesi, la prima presentazione al mondo di Farm, prima ancora che Farm esistesse, io l'ho fatta su invito, l'ho fatto lui a Ovesta, in questo paesino della Svezia, dove c'è uno spazio culturale pazzesco, e lui era amministratore, quindi... E Andrea è venuto là per fare seminari, un po' come questi, tutti quelli che si occupano della cultura. Sì, dal 1 aprile sono nominato direttore di Servizio Cristiano a Riesi. Il Servizio Cristiano è un po' posto particolare, specialmente particolare dove è situato a Riesi. Era un'idea da un visionario che ho trovato solo una montagna di olivi. Ha avuto una grande idea di creare un centro. Anche lui, partito da zero, con tutte queste domande che voi avete, anche lui ha avuto 2 milioni in più. E alla fine realizzato questo posto. Oggi è diventato una piccola città, non così grande come bella come questa di Favara, perché questa è molto più... No, ma scherzi, allora, è un posto pazzesco, è una comunità molto più robusta. Intanto stiamo parlando di un luogo che è nato negli anni 60. Sì. Cioè, a Riesi, che ahimè si portava, come dire, forse il più alto tasso di violenza domestica, non so quale fosse, diciamo, l'indice che aveva portato a crescere. Di povertà culturale, sicuramente. Povertà culturale. Oggi questo spazio è uno spazio potentissimo, bellissimo, è una cittadina ancora difficile perché Riesi è il luogo in cui io esercito la mia professione notarile, quindi conosco bene, sono da 20 anni, e nonostante, ecco, questa astronave pazzesca che è il Monte degli Olivi, la città non riesce ad andare avanti, quindi lui oggi ha una sfida importante, quella di riconnettere, diciamo, quel luogo nonostante ci sia la scuola, funzioni benissimo, uno spazio meraviglioso dove non c'è un pezzo di plastica per terra, dove tutto funziona alla grande. Quello che probabilmente è mancato fino ad oggi è questa capacità di incidere sulla città, no? Cioè, se io da semicittadino di Riesi non riesco ancora a capire perché poi, perché peraltro avendo educato generazioni di persone là dentro, mi chiedo perché quando poi queste persone escono dal mondo degli olivi e si misurano la città non riescono a impattare. Sì, questa è sicuramente una storia lunga, ci sono tante spiegazioni, ma questo sarà il mio compito, certo. A unire queste due ambienti, l'ambiente di città e l'ambiente di Servizio Cristiano, anche sviluppare in tanti modi, ci sono tanti settori, da tutto il centro ricreativo, di agricoltura, scuola materna, sacco di cose sono dentro questo, ma c'è anche potenzialità, diciamo, come oggi forse 30% di quello che potremmo essere siamo, ci sono 70% di possibilità ancora sviluppare questo centro, e uno di quello è a collegare con la regione, con tutti questi aspetti che possiamo fare, ma la cultura è uno di quello che io sono molto interessato a cominciare e sviluppare, per anche collegare, fare, dare possibilità ai diversi progetti, dare possibilità alle diverse associazioni, collaborare da seminari a creazioni, perché noi abbiamo tante possibilità in centro. Ovviamente, come tutti voi che lavorate con la cultura, sempre abbiamo problemi con i soldi, ma i soldi praticamente ci sono nel mondo, non è se non ci sono. Anche qua in Sicilia, nella mia realtà della Svezia, si sembrava quasi impassibile, perché noi abbiamo è più facile per noi, perché noi abbiamo più soldi come nazione. Ma già scoperto, se non è vero, anche qua i soldi ci sono. I soldi ci sono. Quello che mi manca, una idea, è anche decisionismo. Se decido creare un progetto, sentito un po', sì, si va in comune, dicono no, si va, anche sarà come per me, non è se io entro comune e mi fanno così. Sicuramente devo buttare la mia testa sul muro più volte, ma questo che è sempre una cosa, se più volte tu batti tua testa sul muro, alla fine la testa diventa dura e il muro cade. So, ogni volta ti dicono no al comune, non c'è porta, ci sono finestre. È sempre questo, decidere a farlo. È la nostra storia di 13 anni questa, no? Fino all'altro ieri con la sovrintendente, perché se una sovrintendente, come dire, si mette di traverso, come ha fatto in queste circostanze con noi dopo 13 anni, dopo la storia che abbiamo, dopo anche un po' di forza che abbiamo, no? Perché comunque abbiamo mobilitato una comunità, abbiamo denunciato, abbiamo fatto un casino, però c'è sempre qualcuno che... perché è come se fosse proprio una guerra tra due sistemi, no? C'è un vecchio sistema corrotto che gestisce il potere in maniera bieca, no? Quindi io sono sopra, io comando e tu ti pieghi. O paghi, o obbedisci, o mi lecchi il culo. Sono queste tre possibilità. Se tu sei fuori da queste tre possibilità, entri in conflitto, però noi siamo più forti di loro. Cioè, bisogna avere, come dice voi, la testa dura, resistere e andare avanti, la spuntiamo. No, anche pensare se questa missione di cultura, perché cultura è quello che è base di civilizzazione. Possiamo dividere tanti computer, tante belle macchine a tutti i cittadini, non si crea una cultura di civilizzazione da questo. E la cultura è molto più grande e questo è motore per sviluppare la civilizzazione, anche se sì, alcune volte devo fare in modo sciocchezza, come tu hai fatto a Ries, con Vota Uve o McDonald's di 12 km, questo io ricordo quando è venuto qua. Non sapete questa storia, no? No, perché forse tu non hai coraggio per... No! Una di votazioni, voi siete siciliani, no? Qualcuno, ma no. La maggior parte ma forse no. Ma ormai qua in Sicilia, quando si organizza i voti, sempre girano famiglia a famiglia, prendono queste, si discute, si acchiappa a voti così, non in una cosa democratico di programma di partito, solo a porta, no? E dopo c'è una votazione, non so quando era, 8 anni fa, 12 anni fa. 2008. 2008, sì. E sono venuto qua e ho visto un sacco di poster Vota Uve. Uve è l'artista che devi sapere sopra. Sì. In votazioni, è sacco, è gente che con burettini, con tutto, è una grande, veramente grande opera di PR per votare Uve come sindaco, solo se Uve non si candidava. Il programma di Uve era fare il McDonald's. Lo fa, di fatto, sì, ma prima messo nel... diciamo, l'ultimo piano di costruzione della terrazza, un'insegna di 8 metri di McDonald's, era la più grande in Sicilia. Noi per 6 mesi avevamo genitori che venivano i bambini per il McChicken e dovevamo dire che non potevamo farlo. Insegna vera o la dipinta? No, lui l'ha fatta in 3 minuti. Sì, sì, dipinta, ma dopo ho fatto i disegni 10 km a McDonald's, da Mazzarino, tutto, ho fatto tutta questa pubblicità, no? Anche quello ho creato domande, Riesi, che, qual è McDonald's, dov'è questo McDonald's? E questo più principale, chi è Uwe? Chi è? E dopo, quando tutti hanno scoperto se questa è una cosa di arte, è partito una grande... non so come voi chiamate discussione. In italiano. Sì. Discussione, diciamo, le parole molto polemica, molto gentile. Si è creato una grande... Sì. Dibattito. Battito. Perché gente si è sentito... Ma in queste discussioni, quando si è sentito cosa dicono, anche ci sono state tante voci che hanno cominciato a parlare di sistema di votazione. Perché la tua mia famiglia devo votare uno? Perché mio papà ha promesso voti di questa famiglia a questo candidato? Si è creato qualcosa diverso, un valore in più. So, anche la cosa divertente, ma questo è il potere di cultura, a cambiare veramente, cambiare modo a pensare, cambiare la filosofia di società. So, per questo era molto importante tutto quello che voi fate, e io spero se anche posso contribuire, anche non il mio ruolo, non ho questo lusso come tu, posso fare le cose che irritano gente, ma in un altro modo io spero, se il servizio cristiano anche prossimi anni si nota dal punto di sviluppo di cultura alternativa o diversi tipi di attività culturale. È per scopo a unire. Tu mi hai dato parole, ma tu non lo sai, tu lo sai se io sono stato politico tanti anni. No, va bene. Spero di... Insomma, vabbè, molti loro è la prima volta che vengono a Favara, molti altri sono già stati, però diciamo... Prima ancora che tu arrivassi, io l'ho scoperto ieri, perché mi ha detto Salvatore ieri, ha dato questa bella notizia. E in realtà per me il servizio cristiano è un punto di riferimento per tutti gli ospiti che vengono qui, cioè tutti gli ospiti che vengono da fuori, soprattutto quelli che hanno la macchina, noi li ospitiamo lì, perché ovviamente, e soprattutto gli architetti, perché è un posto di una bellezza rara. Poi le camere sono un po' spartane, però tu lì respiri una storia, un progetto sociale, una visione, la bellezza, cioè veramente un posto... Ma anche le camere si cambiano. Anche le camere facciamo un upgrade. Abbiamo un grande upgrade e arriva un po' di idea di farm quello che è qua, perché noi ci siamo spostati in questa struttura, alla farm ci siamo spostati. Alla farm tua, sì. No, alla Vara. Alla farm di... la farm di Butea. Sì. Madonna, sì, non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo. Allora, ci siamo sposati. Loro sono sposati perché farm non nasce a Favara, nasce in campagna Butera. Nasce in campagna Butera ed era, diciamo, un luogo di ospitalità. Quindi, volgarmente, un avventurismo. No, ancora non sposato. Adesso sposo. Adesso... diciamo come seconda attività faccio matrimonio. Ci risposiamo allora. Ad aprile faccio il mio sesto matrimonio. Però è bello, no? Cioè, chiedono di... Va bene, facciamo 5 minuti di pausa. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono in radio. Salutiamo tutti quanti, vi ringraziamo e alla prossima. Alla prossima. Poi faremo un post sul sito della radio, certo. Quindi chi vorrà riascoltare, soprattutto mettiamo, diciamo, anche tutti i riferimenti per vedere certo. Gli elivi. Sì, tutto quanto. Grazie mille, buona serata a tutti da Mazzarino. Ciao.